una legge, lo dice la parola stessa, ha un effetto che crea un diritto e vincola l'amministrazione, in questo caso il sistema sanitario, a rispettare delle regole. Quello che è stato approvato in Emilia Romagna in realtà non è nemmeno una delibera, è una delibera per la costituzione del cosiddetto comitato etico regionale e va benissimo. Però i tempi, le procedure per ottenere l'aiuto medico alla morte volontaria sono contenuti in un documento che sono linee di indirizzo, quindi non sono un documento in questo senso vincolante che crea un diritto. Bisogna spiegare bene che il diritto in senso generale esiste già e non è il Consiglio regionale a poterlo dare o togliere, ed è la sentenza della Corte Costituzionale sul caso di J. Fabo, sul mio processo, che l'ha stabilito. Quindi ha stabilito che a determinate condizioni un paziente irreversibile con sofferenze insopportabili e tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale deve poter essere aiutato a terminare la propria vita senza soffrire. Quello che si chiede alla regione, cioè al servizio sanitario, è di avere tempi e procedure. Noi diciamo entro 20 giorni bisogna verificare che sia in quelle condizioni e poi eventualmente, se è in quelle condizioni, aiutarlo a morire. Ecco, una legge regionale è fondamentale perché crea dei termini vincolanti. Le linee di indirizzo approvate sono di per loro una cosa positiva, perché indicano dei tempi, significa che l'amministrazione è sensibile al tema, però una legge è comunque indispensabile. Allora noi chiediamo che la nostra legge, che tra l'altro è di iniziativa popolare, quindi presentata grazie a migliaia di cittadine e cittadini dell'Emilia Romagna, sia discussa al più presto e che la Giunta Bonaccini, insomma, non abbia paura di questo. Poi tra l'altro non solo Zaia ma anche Toti e Fontana, quindi Liguria e Lombardia, hanno espresso favore per questa legge, amministrazione di centrodestra, quindi non si vedrebbe proprio perché l'Emilia Romagna dovrebbe tirarsi fuori da una sfida come questa. Proprio su questo ti faccio una domanda, perché invece la destra qui in regione ha già sul piede di guerra, ha invocato l'intervento del ministero per bloccare quanto fatto fin qui. Ma purtroppo a destra non si fanno pace alcuni non fanno pace con il fatto che questo diritto esiste già e non è la regione a poterlo mettere o poterlo togliere. Se capisco bene, vogliono fare un ricorso per questioni procedurali che possono riguardare soltanto questa costituzione del comitato etico regionale. Credo che siano obiezioni inconsistenti, ma insomma, che facciano ricorso non cambia nulla rispetto alla questione che poniamo noi, cioè che se un malato, una persona malata, chiede di essere aiutata a morire, le si dia una risposta in tempi certi. Pensate che Federico Carboni nelle Marche, che è la prima persona con nostro aiuto a avere ottenuto questo tipo di soluzione, ha dovuto aspettare 2 anni prima che la ASL nemmeno gli facesse visita a casa per sapere se effettivamente era in quelle condizioni. In realtà lo sapevano benissimo, ma avevano paura di avviare la procedura per il suicidio assistito. Ecco, tutto questo nulla ha a che vedere con queste battaglie da azzeccagarbugli di una parte della destra, altri in altre regioni, ma io spero anche in Emilia Romagna che ci sia qualcuno che anche a destra voglia avere posizioni, come dire, liberali su questo tema. In ogni caso, le peggiori sconfitte sono quando non si prova nemmeno a combattere, quindi io spero che le consigliere e i consiglieri abbiano il coraggio di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni e delle proprie scelte. Si dice: non dobbiamo ripetere quello che è accaduto in Veneto, dove si è perso per un voto. Si è perso per un voto, ma almeno la gente ha saputo dell'esistenza di questa possibilità, e la democrazia funziona anche così. Non è che si possano fare solo le battaglie che si è sicuri di vincere. Questa battaglia, quella in generale per la qualità delle decisioni alla fine della vita, è una battaglia che noi vinceremo, la stiamo già vincendo. Quindi non, perché? Perché è un fenomeno sempre più diffuso, per fortuna con l'allungarsi della vita e la capacità della tecnologia medica, diventa sempre più importante poter decidere quando è il momento che una persona non ce la fa più. Quindi qui si tratta semplicemente di avere buone regole del servizio sanitario regionale per rendere effettivo ciò che è già diritto, poi noi continuiamo con le disobbedienze civili e con le altre azioni per la vera e propria legalizzazione dell'eutanasia, che non è in questo caso in discussione, e non è certo la regione che può approvare qualcosa del genere.